La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio, ma anche qui al Salone del Libro di Torino, da dove questa puntata della Rosa Purpurea va in onda, una puntata speciale, l'avevamo annunciata anche nei giorni scorsi, perché in onda da qui e perché è dedicata, permeata da questo clima del Salone del Libro di Torino, dedicata proprio alla parola scritta che diventa cinema, al libro che diventa film, al rapporto che c'è fra queste due eccezionali linguaggi narrativi e anche a quanto si lascia e quanto si tiene di un racconto scritto quando deve diventare qualcosa che per immagini deve raccontare una storia. Sarà una puntata quindi particolare, nella quale abbiamo raccolto testimonianze di grandi registi che hanno lavorato su romanzi di eccezionale valore. Ascolteremo nel corso della trasmissione Cito Maselli, che fece la trasposizione cinematografica degli Indifferenti di Moravia, oppure Emilio Greco, che lavorò tanto sullo Sciascia di Una storia semplice quanto sulle notizie degli scavi di Lucentini, racconto breve che proprio recentemente è andato al cinema, anzi dovrebbe essere ancora distribuito nelle sale. Però ci saranno anche ospiti qui da noi, qui a Torino, e ospiti che appunto effettuano il doppio lavoro di scrittore e di sceneggiatore. Si comincia subito con Massimo Carlotto, che è venuto a trovarci qui e che ringrazio molto per aver aderito al nostro invito, perché è uno dei casi più interessanti della recente narrativa italiana che diventa appunto cinema. Io non so se lui è contento di sentirsi chiamare nuovo maestro del noir, ma insomma le cose stanno esattamente così. Già tre suoi lavori sono diventati film tra l'altro ci regalerà qualche notizia, anche qualche sorpresa, perché si sono interessati a lui, al suo lavoro, niente meno che dall'America. A noi italiani questa cosa fa sempre un po' effetto, effettivamente. Sì, sì, lo zio d'America. Cioè. Allora, partiamo proprio da qui. Massimo, sceneggiatore e scrittore, o scrittore e poi sceneggiatore, per il momento soprattutto di materiali scritti da te stesso. La prima domanda è proprio quella. Un libro nasce con determinati meccanismi, poi a un certo punto ci si intravede dentro la potenzialità cinematografica. Molto spesso tutti noi, leggendo un libro, diciamo: ma è come vedere un film, cioè già è molto evocativo, è come se ci vedessimo già davanti agli occhi queste scene. Quanto si tiene, quanto si lascia, quanto è ingombrante una parola già scritta per qualcuno che poi deve forse fare tabula rasa e ricominciare da zero con il cinema? È molto ingombrante, infatti tu hai usato un termine molto esatto, tabula rasa, perché all'inizio hai detto ci sono due linguaggi, veramente differenti, perché lo scrittore scrive per far immaginare, lo sceneggiatore scrive per far vedere. Già questo chiarisce, secondo me, in modo inequivocabile che proprio i linguaggi sono così diversi, che quando io sento il famoso dibattito più bello il libro, più bello il film, secondo me è una cosa impossibile, perché devono essere due cose per forza differenti. Per cui anche se sei l'autore del romanzo ti devi dimenticare di averlo scritto, perché devi fare tutt'altro lavoro. Tu hai una storia, prendere gli spunti che ti interessano di quella storia e riscriverla in un altro modo, ma quello che verrà è comunque una cosa molto diversa, anche perché se pensi il mondo del cinema è fatto di una miriade di sensibilità artistiche diverse che si mettono insieme, il regista, gli attori, gli stessi sceneggiatori, il scenografo, ci sono mille cose che poi alla fine fanno un prodotto, quindi già questo chiarisce che le cose sono molto molto differenti. Ecco, nel tuo caso dicevamo tre tuoi libri che sono diventati film, sono tra l'altro tre libri di atmosfera molto diversa, perché Jimmy della Collina racconta di un ragazzo irredento, diciamo così, e forse irredimibile anche, che in tutti i modi vuole delle scorciatoie forse per la sua vita, ha avuto un cotè cinematografico molto aspro, molto duro, con questa Sardegna molto chiara, una luce molto, molto luminosa. D'altra parte il Fuggiasco, che racconta un po' di più quella che è stata la tua epopea anche giudiziaria, è un romanzo e anche un film di altro tipo. Arrivederci Amore Ciao, ancora un'altra cosa. Come ti sei trovato con i registi che poi hanno dovuto portare sullo schermo, far diventare immagini, quindi dare un nuovo vestito a quello che tu avevi scritto? Ma sempre bene, perché secondo me sono loro i comandanti della nave, questa grande nave che è il film, per cui io trovo sempre fondamentale la collaborazione tra sceneggiatore, tra sceneggiatori e regista. Io credo che sia proprio un momento assolutamente felice che bisogna creare, che debba essere tale, perché il risultato finale è molto importante, non può prescindere da questo. E sono tre cose molto diverse. Poi ho fatto un altro tipo di esperienza che è interessante, che non c'entra con la televisione come con il cinema, ma di scrivere dei racconti che poi sono diventati fiction, facendo il discorso di scrittura ma sapendo che sarebbero diventati fiction, poi il lavoro con altri sceneggiatori e i registi e poi è diventato fiction. Anche quello sono stati dei passaggi che è molto interessante, perché sono partiti dalla consapevolezza che comunque sarebbero diventati immagine. Certo. Quindi questo ci porta dentro il laboratorio dello scrittore. Allora, quando tu scrivi un romanzo, adesso tra l'altro diciamolo anche perché è da pochi giorni in libreria il tuo nuovo lavoro, che è Alla fine di un giorno noioso, lo dico veramente non perché c'è qui Massimo, mi è capitato di leggere la prima pagina del libro online perché non ho avuto ancora tempo di comprarlo, è davvero fuori da pochissimi giorni, ed è fulminante, come si dice appunto, è un film. Allora ti chiedo, quando scrivi, il tuo essere diventato anche uno sceneggiatore di grande successo, ti influenza? Cioè cominci a scrivere un po' anche un po' come un film? O comunque attingi a climi cinematografici nella scrittura? No, perché questo diventa molto pericoloso, perché sennò cominci a fare dei calcoli assurdi, che sono proprio quelli del mestiere, dicendo no, questa parte non posso scriverla perché sennò costa troppo e non la producono. No? Quindi arrivi a dei momenti non da niente, perché le cose che sono assolutamente perverse. No, assolutamente no, bisogna distinguere, perché sono due cose totalmente differenti. Però la cosa interessante è, dato che la continuazione di Arrivederci Amore Ciao, che mi ha telefonato Alessio Boni, che è stato protagonista del film, mi ha detto voglio farlo, voglio essere ancora Giorgio Pellegrini. Michele Soavi era il regista, tra l'altro. Michele Soavi è un grande maestro. Lui deve ancora leggerlo, ma il protagonista è già lì. È già certo. Beh, del resto c'è anche continuità, immagino, anche in quel senso potrebbe esserci un ruolo per questo. Invece più ad attingere al tuo immaginario, il cinema quanto ha influenzato la tua scrittura, proprio come mondo al quale, così, dal quale ricavare personaggi, situazioni, epopee? Ecco, cioè, lavora in questo senso il cinema? Guarda, io sono assolutamente convinto che un autore di genere debba essere influenzato non solo dalla letteratura. Sarebbe un errore, perché oggi ci sono, vuol dire, la letteratura di genere ha avuto uno sviluppo, pensiamo alla graphic novel, pensiamo al cinema. No, io sono fortemente influenzato dal cinema e lo rivendico. Io per esempio ho capito come descrivere alcune scene di noir guardando i film di Takeshi Kitano. Mi ha insegnato alcune percezioni del noir che io ho trovato fondamentali, e sono molto grato a Takeshi Kitano per questo. Certo, perché hai scelto un maestro mica da ridere, effettivamente. Takeshi Kitano, con il suo finto minimalismo, no? Che a volte sembra che non ci sia quasi nulla, ma poi in un attimo è cambiato tutto. Io saluto anche Carlo D'Amicis, altro scrittore e altro sceneggiatore che ci ha raggiunto qui in postazione. Grazie di essere venuto. Vi metto tutti e due alla prova con un signore che si chiama Francesco Maselli, detto Cito, insomma uno dei più grandi maestri di un cinema italiano impegnato del dopoguerra, perché Maselli nel 61 diresse un film che si intitolava Gli Indifferenti, come un capolavoro di Alberto Moravia, e quella sceneggiatura, quel film e anche il rapporto con Moravia sono contenuti dentro alcune domande che gli abbiamo fatto, che prego la regia di mandare in onda, anticipate da una clip del film Gli Indifferenti. La vedo preoccupata. Altro che preoccupata, lei non sa cosa è successo. Sono venuti qui due uomini, con delle facce che non le dico. Volevano fare la lista dei mobili per assicurarsi che non avessimo venduto niente. Cose da non credersi. Ufficiali giudiziari, immagino. Ufficiali giudiziari, mamma. Questo lo so, l'hanno detto loro. Comunque Michele è andato là agli uffici per vedere. E io ho cercato subito lei. Lei è l'unico che può risolvere questa situazione. Dipende da cosa intende per risolvere. L'intervista che fece Moravia a Rai 2 subito dopo l'uscita del film, lui disse: come meccanismo è dialoghi è più lontano dal mio testo. Dice: ma lei ha scritto un testo completamente nuovo. E tuttavia, proprio perché l'ha sentito profondamente come suo, è diventato il film più vicino al mio romanzo. Cioè, io credo che un autore o un regista deve far suo il testo letterario, come ho fatto con Calvino per Avventura di un fotografo. Far suo il testo letterario e poi rielaborarlo, ma avendolo assorbito profondamente. Certo, quindi insomma diciamo che è un po' l'idea su cui si dibatte spesso, no? Del tradire per essere fedeli, se vogliamo, no? Esattamente, sì, esattamente. Quando lei si avvicinò al testo di Moravia, Gli Indifferenti, cosa le piacque? Quale fu l'elemento cinematografico che lei capì subito che poteva diventare importante? Senta, dir la verità, Gli Indifferenti è stato un romanzo che ci ha segnato tutti, la mia generazione. Durante il fascismo erano due i testi che erano le occasioni di montare come poeta e Gli Indifferenti di Moravia, erano i due libri, i due riferimenti più profondi che avevamo. E infatti io ho fatto i miei primi due film, erano sia Gli Sbandati che I Delfini, erano un po' delle anticipazioni degli Indifferenti del film. Poi ho fatto il romanzo, proprio il testo di Indifferenti, e mi sono trovato un po' a casa mia, perché c'erano, diciamo, sia i personaggi che anche i meccanismi erano in qualche modo qualcosa che avevo assorbito profondamente. Allora ho praticamente riscritto completamente, il dialogo è tutto diverso. Indifferenti era un romanzo fortunato, perché è vero che aveva colpito la nostra generazione. Io sono degli anni 30 e quindi era una cosa che veniva naturale di ricostruirlo, di proporlo in modo personale. Lei appunto ha parlato anche del suo lavoro con Calvino, sono due autori estremamente diversi, cioè tanto più intimista, diciamo, Moravia, addirittura sì. Gli Indifferenti quasi si svolge sempre addosso agli attori e ai protagonisti, quanto immaginifico Calvino, no? Ecco, da uomo di cinema, è più facile, diciamo, plasmare una materia dove è già tutto molto immaginato o una materia un po' più intima dove magari si può fare di più con le proprie armi? È una bella domanda, accidenti. Credo che sia più facile la prima, cioè quando c'è già tutto immaginato, perché tutto lo devi assorbire e riproporre e riscrivere, insomma, in pratica. Però c'è il modo di assorbire tutti i meccanismi psicologici profondi, quindi c'è una materia ricca su cui lavorare. Calvino invece è più gelido. Io poi ho fatto addirittura Avventura di un fotografo, che è un suo racconto, che è già un racconto esplicitamente saggistico sulla fotografia, e quindi era completamente astratto il racconto. Io mi ricordo che quando io gli telefonai per dirgli che volevo fare questo film, allora lui era entusiasta, molto divertito, dicendo: beh, se riuscirei a esprimere la materia, mi dite mano libera, come Moravia, completamente. Poi Calvino era entusiasta degli Indifferenti, quindi mi stimava, quindi aveva una certa garanzia nel fatto che io facevo una cosa sua. Era Francesco Maselli che raccontava le sue esperienze con Moravia e con Calvino. Caro D'Amicis, per Minimum Fax, La guerra dei caffoni, la battuta perfetta, qualcosa di questo sta diventando un film? Sì, La guerra dei caffoni ha così, insomma, coinciso con un progetto di trasposizione, naturalmente ci stiamo lavorando, quindi vedremo se andrà in porto, però insomma il lavoro di riscrittura è un lavoro avviato, un lavoro consolidato, ed è stata un'esperienza forte, interessante. Insomma, ero anche abbastanza curioso di misurarmi con questo problema che ogni autore che viene portato al cinema ha o sembrerebbe avere, no? Il problema del tradimento, di cui si parlava anche in questa conversazione con Maselli. Devo dire che è un problema che si è rivelato falso poi alla fine, perché quantomeno superato dalla grande emozione di dare una nuova vitalità ai personaggi che hai fissato sulla carta. Per me questa è stata una rivelazione, il fatto di prendere questi personaggi e con l'aiuto dell'immaginazione di altri lettori dare loro delle strade diverse, delle traiettorie alternative, degli sbocchi impensati anche nel momento della scrittura del romanzo, insomma mi è sembrato un modo di riportarli in vita, ecco, di ridargli ancora più spessore di quanto io fossi riuscito a dargli nel romanzo. Quindi questa apertura, diciamo, di possibilità, di opzioni, mi sembra straordinaria per chi scrive e per chi poi lavora sulla trasposizione del linguaggio. Certo. Massimo, hai sentito Maselli, diceva appunto meglio partire da una parola scritta dove la descrizione è più completa, dove c'è più materiale, perché si capiscono meglio i meccanismi profondi, anche psicologici, che intercorrono fra i protagonisti. Pensa che io ero convinto del contrario, cioè che uno sceneggiatore amasse invece partire da qualcosa di un po' più abbozzato per poter poi sviluppare la propria diciamo di narrativa e di fantasia. Tu come la vedi? No, la vedo come Maselli, ma anche, voglio dire, mi sembra che la direzione che abbiano preso in generale il cinema italiano, sia proprio il cinema europeo, anche quello di proprio di usare la parola scritta per poter poi produrre dei film, anche perché facilita la produzione, nel senso che già una cosa comunque scritta che poi puoi far vedere al produttore, a un sacco di figure che poi, voglio dire, portano, sono le figure fondamentali per la produzione di un film. Ecco, chiedo a chi vuol rispondere, di entrambi, c'è differenza a pensare un lavoro per il grande schermo, quindi per il cinema sul grande schermo, e per la televisione? Chi vuole rispondere per primo? Massimo. Ma a me è capitato, sì, innanzitutto il discorso dei contenuti, perché già ti dicono se il prodotto va in onda, la fiction va in onda alle 20:40, già cominciano a dirti, sappiamo come scrivi, meglio che non scrivi come al solito, ma di tenere conto del pubblico, di tenere conto di un sacco di cose. Il cinema è molto più libero da questo punto di vista, trovo un problema di libertà espressiva. Sì, credo che il problema sia un problema di regole, insomma. Il primo trauma per un autore, credo che Massimo l'abbia sentito, nel momento in cui viene chiamato a far parte di una industria come quella cinematografica, è quella della corrispondenza delle regole, insomma, che però spesso non sono regole ma sono stereotipi, insomma, anzi credo che forse un contributo degli autori, degli scrittori al cinema può essere anche quello di ripensare la ferrea regola che, consolidata poi nel tempo, non sempre, non necessariamente trova ancora ragioni di essere, insomma. Penso che ci siano traiettorie particolari, oblique, che la letteratura può suggerire anche al cinema, che uno scrittore può suggerire anche allo sceneggiatore. Da questo punto di vista temo che la televisione, di cui non ho esperienza, sia un po' il regno, no? Insomma, dei paletti e delle regole, quindi da questo punto di vista molto più condizionante, insomma. Certo. Poi io credo che la creatività comunque debba naturalmente passare per dei canoni, insomma, e in fondo anche scrivere un libro o scrivere dei gialli, insomma, significa osservanza una delle regole che insomma di una griglia, insomma. Ecco, c'è un detto, ovviamente mai dimostrato, però che si rincorre nella storia del cinema, l'ho sentito dire a molti registi, a molti sceneggiatori, secondo il quale da un grande romanzo è difficile trarre un grande film, almeno molto riuscito, e viceversa molto spesso ci sono grandi film tratti da pessimi romanzi o comunque da romanzi modesti. Avete nella vostra memoria cinematografica esempi o comunque convalide di questo modo di pensare, di questo detto? Ah, sai, come ho detto all'inizio, un po' rifiuto questo, no, questo terreno di confronto, perché i linguaggi sono così diversi che veramente devono essere due cose diverse, per cui Non so se una cosa è buona prima, devono essere considerati due cose diverse. Secondo me c'è sempre un film tratto da un romanzo, è sempre molto liberamente tratto da, e deve essere così, perché i linguaggi sono profondamente diversi. Probabilmente io penso che questo detto si riferisca più, Carlo, a quanto un grande romanzo ingombri, uso di nuovo questo termine, la mente e l'immaginario dello spettatore barra lettore. Cioè c'è chiaro che un Guerra e Pace, voglio dire, o un grande romanzo italiano del dopoguerra, hanno talmente probabilmente ben descritto e ben raccontato la cosa che probabilmente il problema è quello, cioè è che chi poi ti va a vedere al cinema, che forse è un po' troppo condizionato da quello che ha letto, dalla parola scritta, per poi non aspettarsi qualcosa dal grande schermo. Il problema credo che sia la letterarietà, no? Insomma, ogni romanzo e soprattutto ogni grande romanzo contiene un tasso di letterarietà, in qualunque modo poi vogliamo possiamo definire questo termine, come l'elemento letterario, lo specifico letterario diventa specifico filmico, questo è naturalmente il problema. Ed è anche però una grande opzione, perché esiste una letterarietà cinematografica, non è un ossimoro, la letterarietà è una categoria del vivere per me, ci sono dei momenti della mia vita in cui anche per la strada accade qualcosa, la guardo e dico questa è letteratura. Quindi si può trovare nei romanzi come strumento e terreno di elezione, diciamo, di questa componente del nostro vivere, ma si può trovare in qualunque altra maniera di comunicare, tanto più nel cinema, insomma. Come far passare la letterarietà? È un problema, ripeto, questo è anche poi il motivo per cui molti grandi romanzi falliscono sullo schermo, però ci sono esempi anche molto contrari. Io prima pensavo, il primo nome che mi è venuto in mente, io amo molto Lolita di Nabokov, insomma la trasposizione di Kubrick è altrettanto letteraria, altrettanto straordinaria, no? Pur essendo diversa in tanti punti. C'è voluto Kubrick, però voglio dire, cioè... sì, sono andato a pescare. Tra l'altro fra un po' sentiremo l'intervista a Emidio Greco, che ci racconterà proprio un aneddoto proprio su Kubrick e i romanzi, con una piccola sottolineatura alla quale effettivamente io, per esempio, non avevo mai... Testimonia l'una e l'altra cosa, perché Kubrick ha fatto anche grandi film da piccoli romanzi, certo. Perché se non sbaglio 2001 di Seno lo spazio è tratto da un romanzo di Arthur C. Clarke, sì, non così fortunato, non così magari famoso e fortunato, certo. Tra poco ne parleremo. Dovrebbe essere già in collegamento con noi Andrea Barzini, se non sbaglio. Pronto, sì, Andrea? Ciao, buonasera a tutti. Grazie Andrea di essere... Da dove ci chiami? Chiamo da Roma, ma piove, siccome sono in una casa in campagna si sente malissimo e ogni volta che piove il mio collegamento si perde. Abbiamo fatto passi da gigante, ma ancora certi problemi di comunicazione. No. Senti Andrea, due minuti, anzi un minuto per introdurti, poi diamo alla regia e ti tiriamo in ballo fra poco. Con una battuta mi viene da dire, tu hai lavorato tanto anche tu per la televisione, io lo sai, te l'ho detto più volte, secondo me il cinema del grande schermo ti ha perso un po' troppo presto, perché purtroppo in Italia fare i film per il grande schermo non è il mestiere esattamente più facile del mondo, però tu hai portato e sei famoso per il cinema, per un film che se non attinge a un romanzo scritto, diceva prima Carlo D'Amicis, a volte vedo delle scene di vita e dico questa è letteratura. Beh, Italia-Germania 4-3, la partita del secolo, più letteratura di così davvero non si poteva immaginare. Quindi tutto sommato tu hai trovato romanzo anche in un match di calcio, insomma. Sì, beh, io ho fatto anche un'altra operazione molto meno lodevole e che è abbastanza dimenticata, ma che allora fu, insomma, un film abbastanza di successo, prima di Italia-Germania, però io ho sempre avuto il bisogno di lavorare comunque, siccome non sono furbo e non sono abbastanza, ogni tanto mi ritrovo contro il produttore che mi dice una cosa e io dico sì, vabbè, proviamo a farlo, ed era Da senilità feci un film soft porno con Serena Grandi che si chiamava Desiderando Giulia, con Sergio Rubini, Johan Leisen, insomma, un film abbastanza grati, ovviamente. Bizzarro, devo dire la verità, dove io mi infilai dentro senilità seriamente, per poi finire, una volta che dovevamo girare, nelle grinfie, diciamo, del film di genere, che era il film soft porno con Serena Grandi che trionfava, diciamo. Eccoci ancora qui dal Salone del Libro di Torino, Rosa Purpurea, terza parte della nostra puntata speciale dedicata al rapporto fra il libro, il romanzo, la parola scritta, il racconto e il film, qui con due scrittori sceneggiatori come Massimo Carlotto e Carlo D'Amicis, che sono qui con noi nello spazio di Radio 24 qui al Salone del Libro, e in collegamento da una piovosa Roma c'è invece Andrea Barzini, con il quale parlavamo poc'anzi. Qui durante la pubblicità si chiacchierava di un esempio mirabile di trasposizione come quello del pasticciaccio brutto di Via Merulana. Certo, Massimo, che lì c'era del materiale particolare, perché Gadda è quasi un'altra lingua, se vogliamo, rispetto all'italiano. E poi c'era anche una mano cinematografica importante, insomma. Sì, però dico, partire da un romanzo così complesso, da una lingua così complessa, significa essere anche, secondo me, dei sognatori, no? Un po' rispetto al cinema, perché lì parlavamo della difficoltà prima e lì partire dalla lingua di Gad è una difficoltà enorme. Certo, assolutamente. Mentre che dall'Ulisse di Joyce, per esempio, mi viene in mente che dall'Ulisse di Joyce non credo che sia mai stata fatta una trasposizione cinematografica, nessuno ha mai avuto questo coraggio. Ha mai provato, esatto, ad andare così lontano. Carlo, qual è il tuo modo di scrivere? Intendo dire, per molti ascoltatori, per la gente, insomma, il mestiere dello scrittore vive quando poi apri un libro, però il prepararsi, lo scrivere, dei piccoli riti, delle piccole situazioni, cioè tu hai dei tuoi, come dire, no? Canoni rispetto al come si scrive. Sì, i canoni insomma sono abbastanza banali, tradizionali, bisogno di concentrazione. Non sono mai stato capace di scrivere sul classico tavolino del caffè, del bar, nella confusione, sinceramente, come vuole un po' l'iconografia, diciamo, dell'autore tradizionale. La cosa significativa nel parallelismo scrittura e sceneggiatura è il rapporto con la singolarità, con la solitudine, naturalmente, nel senso che la stesura di un romanzo è un lavoro solitario, però è anche vero, ripensandoci, che io ho sempre avuto bisogno di interlocutori, no? C'è un bellissimo articolo saggio di Natalia Ginzburg contenuto in Mai devi domandarmi, una raccolta appunto che raccoglie i suoi scritti sulla stampa, che si chiama proprio Interlocutori, in cui racconta il bisogno durante la scrittura di un romanzo di avere uno, due, tre, non di più preferibilmente, lettori che ti diano un altro punto di vista, no? Perché se ne parlava anche ieri sera nell'incontro che c'è stato qui in fiera per il decennale della collana Nickel, la narrativa italiana di Minimum Fax. E insomma, si parlava proprio della solitudine dello scrittore e della necessità, però, questa specie di paradosso che si viene a creare, di continuare ad essere soli, perché un romanzo porta uno sguardo, porta un punto di vista, e quindi un punto di vista singolo, personale, individuale. Nello stesso tempo però c'è bisogno poi, per evitare delle traiettorie che portino magari completamente fuori strada, di avere anche altri sguardi. Quindi insomma mi viene in mente di dire che c'è una sorta di singolarità multipla che va ricercata, ovvero il contatto con altre persone che ti possano dare appunto delle prospettive diverse. Ecco, io ho sempre cercato degli interlocutori e in fondo le persone con cui ho lavorato in questa esperienza sulla Guerra dei Cafoni, ovvero due registi, due giovani registi che si chiamano Davide Berletti e Lorenzo Conte, che hanno esordito qualche anno fa con un film che si chiamava Fine Pena Mai, e la scrittrice Barbara Alberti, scrittrice sceneggiatrice che il pubblico di Radio 24 conosce bene per la sua rubrica del fine settimana. Insomma, sicuramente, ecco, siamo ciascuno per l'altro una sorta di interlocutore, ognuno scrive, riscrive questo romanzo e nello stesso tempo gli altri esercitano questa funzione di apertura, di prospettive, di possibilità e nello stesso tempo anche di controllo sui percorsi che vengono fatti. Quindi da questo punto di vista è possibile anche nella differenza individuare due metodologie affini. Ecco, tu Massimo invece fai sbirciare qualcosa a qualcuno mentre scrivi o vai avanti da solo? Ma di solito vado avanti da solo, però alla fine poi ho bisogno anch'io di un sacco di interlocutori per capire, poi per fortuna ci sono le figure giuste per farlo, ma la mia esperienza è stata quella di cominciare avendo questo rapporto assolutamente intimo e di solitudine con la scrittura del romanzo, poi dopo l'esperienza delle sceneggiature ho voluto allargare quella del romanzo, per cui sono partito con un libro a quattro mani e sono finito con un romanzo a 20 mani, perché Perdas de Fogo l'abbiamo scritto in 10, e quindi lì è stato veramente un'esperienza molto interessante, perché abbiamo rubato per scrivere un romanzo il mestiere dello sceneggiatore, cioè abbiamo immaginato un romanzo per scene, che è una cosa abbastanza bizzarra, ma funziona, è una bella esperienza. Ecco, Massimo, prima di lasciarti andare, perché fra poco dobbiamo liberare Massimo Carlotto, la notizia a cui accennavamo, facevamo cenno in apertura di trasmissione, è che il cinema americano e dalle nostre parti dice niente meno, si è accorto dell'opera di Massimo Carlotto, l'opera letteraria, e ti ha chiamato per un film che stai scrivendo, contribuendo a scrivere in America. Allora ti chiedo di raccontarci brevemente di cosa si tratta e anche di quali sono le prime differenze, insomma, in questa fase, proprio in questo lavoro da sceneggiatore, di cui ti sei reso conto rispetto alla produzione di un film italiano. Sì, è una produzione americana, ha scelto un regista, hanno intenzione di fare un film sulla criminalità europea con un personaggio americano che arriva in Europa. In qualche modo è la riproposizione in chiave moderna dell'esperienza del bacio violento alla legge quando Gene Hackman arriva a Marsiglia. E però hanno letto i miei romanzi tradotti e mi hanno chiesto di scrivere questa sceneggiatura, ma la cosa buffa è che Carlo De Micis parlava prima di Paletti, e Paletti me li ha dati anche loro, nel senso mi ha detto di usare questi luoghi e questi personaggi. No? E, però è un lavoro che sto facendo lì, sì, in solitudine, però mi sto divertendo molto. Sono alla stesura finale della sceneggiatura, però la cosa incredibile è che nonostante i paletti mi sono trovato a navigare all'interno di una storia estremamente affascinante. Allora, grazie a Massimo Carlotto che è stato qui con noi per questa puntata della Rosa Purpurea. Alla prossima, Massimo. Noi andiamo avanti ovviamente con la nostra trasmissione con Carlo D'Amicis, con Andrea Barzini che è sempre in collegamento. Andrea, hai sentito un po' i tuoi colleghi qui, colleghi sceneggiatori, raccontare un po' i loro modi operativi. Tu hai lavorato, come dicevamo prima, molto anche per la televisione, perché da un certo momento in poi ti sei spostato più su quel tipo di linguaggio. Il tuo rapporto con la parola scritta, con il libro di partenza, con il testo originale, qual è? Sei uno che tenta di essere fedele, che tenta di trasgredire? Come ti comporti? Ma guarda, io come tutti non ci sono regole. Intanto è l'unica regola evidente, che un libro scritto ha un tempo diverso, no? Perché in qualche modo il cinema ha un'ora e mezzo, due ore di tempo, che possono anche essere, diciamo, non è il tempo aristotelico e teatrale, però comunque è sempre un tempo che comunque va raccontato rapidamente. Cioè, se tu vai a fare un passaggio di tempo hai delle regole visive che sono anche abbastanza complesse, c'è le dissolvenze, c'è la voce off, c'è il cambio di stagione, l'invecchiamento dei personaggi. Cioè c'hai una serie di accorgimenti che sono comunque sempre macchinosi, mentre per dirti in un romanzo basta dire passarono pochi anni e lui sei già da un'altra parte. Ecco, quella libertà che però appartiene, perché il romanzo appartiene al tempo, cioè il romanzo ha dentro di sé il tempo, da Proust in poi, voglio dire, però ha questa libertà enorme di passare da uno spazio a un altro. L'altra libertà che ha il romanzo è la voce interiore, la voce di tanti personaggi, il punto di vista che può venire spostato. Chiaramente il film non ha questa libertà. E l'altra grande attu della letteratura è che è evocativa. Cioè, prima Carlotto diceva letteratura è vedere delle persone per la strada. Per me letteratura è soprattutto quando la parola diventa evocazione, cioè un colore detto, un sapore, un giro di frase sintattica ti porta in un mondo. Allora, l'equivalente nel cinema è tante cose messe insieme, una bella luce, un bravo attore, una bella battuta, una situazione di una costruzione drammaturgica che ti porta a che in quel momento quella battuta detta da quell'attore con quella luce riporta qualcosa che assomiglia a un romanzo. Adesso abbiamo da sentire altri tre minuti di intervista con Emidio Greco, che tra l'altro è recentemente tornato nelle sale cinematografiche italiane con un film che si chiama Notizie dagli scavi, con Beppe Battistone, Ambrangiolini, e un film che è ancora nelle sale cinematografiche italiane, tratto da un racconto di Lucentini, ma che negli anni 90 invece si era fatto notare dal grande pubblico con uno straordinario film che si intitolava Una storia semplice, aveva un grande Gian Maria Volontè fra i protagonisti e soprattutto era tratto da un racconto di Leonardo Sciascia, e anche qui la materia abbiamo detto prima per Gadda, forse non siamo a quei livelli di difficoltà, ma la materia letteraria era molto molto particolare. E allora sentiamo Emidio Greco raccontarci proprio il rapporto con la parola scritta di Leonardo Sciascia. La spinta iniziale non può che essere la condivisione del tema, cioè intravedo nel romanzo, nel racconto, un tema che mi riguarda molto da vicino. Dopodiché penso al film unicamente in termini, diciamo così, in linguaggio cinematografico. In questo senso, per esempio, una storia semplice, ma Notizie degli scavi, perché pensato in termini cinematografici? Perché il racconto è in prima persona, cioè tutto quello che viene raccontato, che succede, i dialoghi inventati da Lucentini, hanno una loro logica che è quella della soggettività di chi sta raccontando il tutto, che è il professore stesso. Invece, pensandolo come un film, dico no, deve essere tutto raccontato in terza persona, quindi diventa tutto, diciamo, oggettivo, e qui ho messo in campo una vera e propria scommessa, cioè mi sono detto l'invenzione del linguaggio di Lucentini deve rimanere, il modo in cui parlano i personaggi, che è un modo a mio avviso assolutamente straordinario come invenzione letteraria, devono rimanere tali. Allora la scommessa è questa logica che nel racconto, ripeto, è quella della soggettività di chi sta raccontando, reggerà a una oggettività, cioè acquisterà la necessaria verosimiglianza di un film proiettato sullo schermo, per cui il problema fedeltà o infedeltà sono, come dire, interrogativi che hanno indubbiamente un senso. Alla fine però, a mio avviso, restano i film che sono o riusciti o non riusciti in quanto film, un po', lo dico con tutta la modestia possibile, insomma, quello che è successo a un grandissimo regista che è Kubrick, che ha fatto 12 film, il primo lo ha disconosciuto addirittura. Bene, pochi notano che tutti i film di Kubrick sono tratti da opere letterarie preesistenti, da romanzi, da racconti preesistenti. Non c'è un solo film di Kubrick che parta da un soggetto originale. Bene, a nessuno viene mai in mente di mettere in dubbio, come dire, l'autorialità di Kubrick, no? Ecco, perché? Perché anche quando decideva di fare il film, Kubrick, se è possibile, ha degli spazi di tempo, se così si può dire, anche più lunghi tra un film e l'altro di come può essere capitato al sottoscritto, li pensava in termini strettamente cinematografici, insomma, e quindi alla fine, al di là della fedeltà o infedeltà, che certamente vale la pena di studiare, ma quello che conta è il film, che è un'altra opera in tutti i sensi, perché il linguaggio è diverso, perché alla fine la fruizione è diversa. Esiste come film o non esiste? Questo è l'unico problema che mi pongo. È un dilemma quasi di sapore amletico, essere o non essere del film in quanto tale. È venuto a trovarci Maurizio Rebola, che saluto. Ciao Maurizio, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. E questo perché poi dopo bisogna anche che i libri e i produttori cinematografici si incontrino, perché altrimenti non si fa nulla. Allora, siccome poi il mercato dei diritti è vario e gli ambiti nei quali si sviluppa sono i più molteplici, poi oggi, come dire, la connessione, la connettività permette di fare tutto, aiuta. Però il fatto di incontrarsi è importante. Qui al Salone del Libro di Torino l'hanno capito, tanto che hanno creato già tanto tempo fa una cosa che si chiama IBF, e che è proprio il pezzo del salone nel quale chi ha dei libri di cui vuole vendere i diritti per il cinema incontra chi vuole fare i film dai libri. Com'è andata quest'anno in un minuto? È andata benissimo, grande fermento di market, di business proprio. Qualche dato, 700 partecipanti, 7500 incontri in 3 giorni. Newton Compton ha venduto i diritti del Divoratore di Lorenzo Ghinelli alla Lotus Production, quella per intenderci che ha prodotto Immaturi. parecchio interesse per parecchi progetti. Noi abbiamo stretto una collaborazione molto intensa con il Torino Film Lab, che è il laboratorio del Torino Film Festival, per cui da quest'anno noi inizieremo a lavorare con loro per la selezione di un progetto tra tutti quelli presentati dagli editori internazionali e nazionali presenti al Salone del Libro e all'IBF quest'anno. Questo progetto verrà tradotto in sceneggiatura da parte di Torino Film Lab, da parte dei nostri scout che li hanno selezionati, e in collaborazione con FIP Piemonte, la finanziaria della Regione Piemonte che collabora col cinema, verrà fatta la produzione di questo film. Speriamo che questo sia solo un esempio da cui poter partire per poter fare tanti altri progetti insieme, partendo dall'International Book Forum. Allora, insomma, un posto dove i libri si incontrano e, come vedete, diventano anche film. Siamo quasi in chiusura, l'ultima parola sta a Carlo D'Amicis, che è qui con me. Hai sentito prima Emidio Greco, raccontava di Kubrick e diceva: ha avuto più o meno, anzi più del mio tempo per fare i film. Verrebbe da dire beato lui con una battuta, perché oggi fare un film e metterci magari 4 anni, 5 anni solo per la parte della creazione è un lusso che forse non ci si può più permettere. Che sia un lusso, insomma, ma è sempre un po' la questione delle regole di cui parlavamo prima. Naturalmente, se sei Kubrick, queste regole le puoi tranquillamente evadere, insomma, e credo che sia una condizione molto, molto privilegiata. Poi, sì, certo, insomma, io trovo una straordinaria differenza, se posso dirla in 30 secondi, proprio tra il lavoro della scrittura e il lavoro della sceneggiatura, ed è il fatto di lavorare sul romanzo, l'idea che la tua scrittura sia destinata a rimanere, forse un'aspirazione frustrata poi dalle circostanze, ma questa è l'idea per cui si fa un romanzo. Quando lavori con degli sceneggiatori sulla sceneggiatura, sai già che diventerà il romanzo di un altro. Questo anche per l'ego, per il proprio io, è un bel esercizio. Allora, con questa riflessione che ci spiega molto anche della differenza proprio di lavorare, di mettere le vesti di sceneggiatore e quelle di scrittore, noi chiudiamo la nostra puntata speciale qui dal Salone del Libro di Torino della Rosa Purpurea. Grazie a Maurizio Rebola dell'IBF e in bocca al lupo per i prossimi grazie anni. Veramente. Grazie a Carlo D'Amicis che ha rappresentato con Massimo Carlotto la categoria degli sceneggiatori e degli scrittori. Appuntamento a tutti quelli che ci ascoltano, come sempre, al prossimo sabato alle 18 e la domenica alle 15 per la Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.